finita le mie teorie. Com'è? Sì, da me sei quasi Santiago 9, di segnale, sì, quasi Santiago 9. E vabbè, non ti preoccupare perché tante persone alle volte ci scambiano. Cambiano la mia voce con quella di Gio Maria, perché evidentemente ce l'abbiamo simile, che si rassomigliano, per cui non è un problema. Anto, sei in compagnia mia, oltre a me c'è Tore e anche Danilo, vai per chi vuoi. Ciao, salutoni a tutti in circolare. Ciao Anto, hai sentito? Avanti Danilo. Sì, ciao Antonio. Ben entrato. Ciao Danilo, da che zona stai modulando? Sotto Santorcella Nord. Arrivi abbastanza bene. Ma quanto ti sto arrivando? Fammi questo favore. Non so che antenna hai, insomma in ombra qua. Non so che antenna hai, se poi non ti ho capito. Detto, non so che antenna c'hai tu, intorno in ombra qua. Una Game Master autocostruita. Non arrivi così, o forse appena negativo da me, non lo so. E di radio? Invece come? Una buona, ma tipo ti stai uscendo, normale. E il 140 è come potenza, ce l'ho a metà. Già va bene. Ti ha detto che... Ok dai, io vi saluto e te la risentiamo. Già va bene comunque, e sarà 9-9-10 perché... digitale, capito? Sarà 9-9-10 sarà. Invece con quarantena c'è? Avete parlato in due, avete parlato. Ti arrivo, dici. Io come ti arrivo? Adesso che hai migliorato l'antenna, suppongo che mi sentirai un po' meglio anche di segnale. Vai. Sì, no, non c'è problema. Almeno è alto, un metro in più è alta. Ma mi stai ascoltando bene? Forse non mi hai capito quello che ti ho detto. Sì, va bene, d'accordo, abbiamo capito che tu l'antenna hai cercato di migliorarla e va bene così perché qualche cosa hai guadagnato di segnale. Ti ho chiesto quanto ti arrivo io da te lì di segnale, adesso che hai migliorato un pochino la tua antenna. Avanti Antonio. Se mi arrivi quanto Danilo, 9-9-10 così. Ok, va bene, allora siamo più o meno lì, sì che non è un problema. Avanti Tore. Sì, andiamo. Vabbè, sollevato di un po', ma adesso ti sento anche più bene anche io, ti sento. Prima ti sentivo più basso, ma adesso ti sento anche bene. Andavi Antu, riprenditela. Capa, no, va già andata. Non ero soddisfatto, non ero. Stazionario e manco si muove l'ago. Andate così. Va benissimo. Riprendela Giulio. Sì, io riprendo il microfono per salutarvi, dai, vi lascio. Vi ringrazio intanto per la chiacchierata. È stato un piacere. Ciao Danilo. Ancora complimenti per l'affare che hai fatto. Va benissimo così. Sono contento per te. Ciao Tore. Grazie anche a te per la chiacchierata. Ciao Antonio Bombolo. Io ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo. Vai Danilo, K. Sì, ciao. Ma ci sentiamo un altro momento, quando accenderò nuovamente la radio, che l'accendo poco e niente io. Ma comunque già ci sentiamo, ora quando ci sono problemi basta fare un fischio. Ciao Giulio, buonasera, buon carico da te e ben tutto. Ti volevo chiedere una cosa, se ti ricordi quando tu lasciamo il radiere della Matriva 5. Capo, dai, io vi saluto. Ce la risentiamo le prossime. Ciao, ma mi sembri cosa, come si chiama? Mamma mia, non voglio dire, sta messa veloce. Che non mi viene. Ok, dai, anch'io devo chiudere. Ce la risentiamo, ciao. Montate, nuova, e se capita me ne disco e non se ne parla più, intanto non la userò mai più. Non la userò mai più per il semplice motivo, Danilo, lo dico per te perché gli altri magari lo sanno già, l'avevo tolta perché durante la notte quando soffiava vento forte addirittura mi svegliava il fruscio dei radiali. Danilo, si può immaginare, questa antenna è nuovissima, ma veramente nuova, veramente bella. E l'ho smontata per quel motivo lì. Allora avevo pensato, la tolgo e mi faccio un'autocostruita e così avevo fatto, e poi tutta la storia è andata avanti per almeno 2 anni e mezzo, una cosa del genere, con l'auto costruita. Dopodiché poi ho fatto questo cambio con questo mio nipote, che non è a Sassari, è a Carbonia, e ho dato l'auto costruita e lui mi ha dato la originale, tutto lì da lì. Va bene, con questa rotta vi saluto ancora una volta, saluto a tutti, grazie ancora per questo. Io chiudo, ciao Danilo, Tavore, Antonio Bombolo e Franco California. Vai Danilo. Trapesi della Mantova 5, sono 1,60, però dentro sono anche caricati, sono appena caricati. Sì, sì, sono un pochino lunghi, perché hanno tipo un solenoide, non sono proprio in linea, hanno tipo un solenoide, e sono più o meno come una carica quel solenoide. Ho capito, cioè, meglio che l'altro, la notte sono mezzo andati, ho visto. Dove volevo costruire l'alluminio? Vabbè, li puoi prendere lunghi 2 metri e accorciarli piano piano col tagliatubi. Non te lo so dire, non lo ricordo adesso esattamente quanto era la misura giusta del radiale di in rame proprio, comunque più o meno è quella misura lì, non me lo ricordo adesso. Adesso lo provo a mettere da fargli da 1,60 e la prova dove lo metto. Sono prove sempre da fare. Provaci, poi ci fai sapere più avanti, quando finirai tutto quanto. Devo provare a vedere come suona con l'antenna. E allora, dai, non è che problema, le radiali che sono spezzati, purtroppo, con le cornacchie si pagavano, riparavano e sono tutti spaccati. Solo che con l'alluminio è più, ancora più delicato, me. Quello è. È il problema, che fargli smetto di alluminio a pieno, sì? Sono ok, li metti il tondino pieno, sempre in alluminio, oppure ce lo trovi direttamente al rame, però devi guardare tu. Se trovi delle bacchette piene di metodologia, se la bacchette è di litro, la camera è di litro, all'inizio tu le paghi a 1,60, le paghi tutte a 1,60. Oppure c'è cosa potresti fare, con un filo, un nylon, senza, legare la punta del radiale all'antenna, in modo che non lo faccia scendere se per caso ci dovesse calare un uccello. Quando la lancia grossa, quando un 0,60 dovrebbe andare bene. E anche quella lì potrebbe andare bene. Tanto sono 5 radiali della turbo, giusto? Scusate un attimo, io sto chiudendo. Mi stanno chiamando. Ok, ciao Fra, ci sentiamo. Ciao Danilo, alle prossime. Ok, ciao a tutti e due, ci risentiamo. Ciao, ciao, buon carica, buon tutto, ce la riascolta alle prossime. Ciao dottore, già ci sentiamo alla prossima, grazie, ciao. Ciao. Prova a fare come ti stavo dicendo, magari come con il peso che mettono gli uccelli sopra, cornacchie, anche uccellini. Magari se ne va proprio in punta, anche quel peso lì tende a fartela scendere il radiale. Prova a mettere un filo di lenza e vedrai che già non lo corica più quel radiale. Non fate fare così. Sicuramente faccio così, faccio vedere. Questo sto utilizzando 680, No, già come radio già sei buono, il segnale è un pochino basso, babbo. Però già ti sento bene, forte e chiaro. Il segnale è basso, perché con l'antenna, con questa antenna la posso dare gratis, tutta, non mi fido. Aspetta, qual è che antenna game che mi hai detto che stai usando adesso? Adesso sto usando una boomerang, guardi. Ah, la boomerang. Mi sa che la boomerang regge 100 watt se non sbaglio. No, infatti non la vedi più perché il caso a casa non fa da prova. Adesso se le stazionarie sono a accordato, non è stazionario, però non mi fido a dare più dati del sud. No, se non ti fidi allora no. Magari va, pesci appena appena in più, bruci tutto, e non conviene. Se non è stato lascio di tutto, va bene. Faccio la data della lancia, fate la giornata, c'è la data sotto dell'antenna. E vado a fare la data, così. Quindi come lasciarla così, tanto come radio, l'importante è che sia bella chiara la voce, quindi dei segnali così di affutti. Infatti dico sempre, se non arrivo in punta di casino, però mi sentono, cosa cambia? Secondo me non cambia niente. Come fatti? Direi io, me la propongo che la lascio proprio così. Devo fare, mutare, fare. Basta te. L'avevo già piazzata, la mano vaccina, poi l'ho risolta, l'ho così, e poi si schiava, allucinato. Cioè così, quando è in alluminio ne risenti molto sui disturbi. Se ce la faccio, ci metto una due masse, e cioè la ricordo, ce la devo una che ho costruito, l'ho regalata. Ma perché non te la prendi una da Lucca di Game Master? Almeno seguono un'antenna dritta, filare, dritta, e non hai problemi. Ma ce l'avevo pure stessa, l'ho regalato a un amico di padre, ma sì, ah, e come ti trovavi con quell'antenna? Ma il problema era come cosa ricezione quella stessa, non ha cambiato niente. No, infatti me la devo sollevare un po' questa antenna, così esco un pochino senza problemi, anche perché sollevandola un pochino non c'ho più l'antenna che mi vede il tetto, perché se non sbaglio è 1,5 metri da terra, dal tetto. Quindi col tubo nuovo che ho procurato, che è quasi 5 metri, riesco a sollevarla senza problemi. E niente, almeno un pochino più alta. Ma quella è autocostruita, l'hai fatto tu? Sì, questa qua me la sono autocostruita io. Luca mi ha detto tutto quanto come bisognava fare, io ho preso e mi sono messo. Ma che ci hai messo l'H100 di casa? No, qua c'è il 58 e il 213. C'è sia il condensatore che adattato l'impedenza a 213, poi tutto il resto è in 58 e l'ultimo pezzo è in filo normale. Ma che cosa fa il filo normale? 2,5 o 3? No, da 2,5 questa qua l'ho fatta, con questa antenna che ho adesso. Ah, ecco. Io l'ho fatto da 3, ah sì, da 3,5, da 4 il filo. E anche io ho lo stesso 16 spire, però ho fatto col 213 i due spettoncini, l'adattatore di impedenza e due cose, condensatore, però già va, alla prima mi è uscita è proprio senza assillarmi molto. Se ti servono i canali da pesca, prova a chiederlo a Luca se per caso ne ha ancora qualcuna, perché una me l'avevo presa io da poco, se non che ne ha qualcuna lui ancora, o magari ti dice dove ordinarla e te la ordini, oppure te la ordina lui, chiediglielo. E sono lunghi 8 metri e sono belli, sono della linea F. Sì, della linea F sono le Next 808 FVGA. No, sono belle lunghe, 8 metri, perfette. Prima c'era anche la vecchia, però non ne ho più visto di quelle 8 metri. Se vuoi te ne prendi una da 10 e almeno c'hai anche il tanto di innestarla dentro il tubo, anche 9 metri, però quelle da 9 metri e da 10 metri costano un pochino di più, quello è. No, basta mettergliene due, una dentro l'altra, ovviamente una più corta, e te la schiumi, prima diventa bella rigida. Ok, ciao Fra, già ci sentiamo alla prossima. Grazie per adesso, della chiacchierata. Ciao. Ciao.